Queste riflessioni sono sorte in un convegno di giovani dove più di 200 di loro cantavano un bellissimo inno con queste parole. Assomigliare a te, Gesù, è il mio desiderio. Pensar, agir, amar più come te. Ero preso da questa atmosfera quasi magica, quando ad un tratto ho preso coscienza di quello che stavamo cantando. Le parole dell'inno erano belle, lo spirito del canto ottimo, ma ero consapevole che questi giovani stavano cantando con tutto il loro cuore e sentimenti, dando alle parole un solo significato. Essi volevano assomigliare a Gesù, volevano seguire le sue orme, ma sicuramente erano presi più da un idealismo che dalla realtà. Proprio perché vi è questo costante pericolo di idealizzare la fede cristiana, desidero prendere in esame l'altro aspetto della medaglia della somiglianza con Gesù. Quando desideriamo essere simili a Gesù, subito la nostra mente corre con nostalgia alla sua santità, alle sue opere, ai suoi miracoli, al suo insegnamento, al suo amore per il prossimo. L'altro aspetto della medaglia è che in lui si sono adempiute letteralmente le parole profetiche del profeta Isaia. Ecco, il mio servo prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato. Come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo. Così egli aspergerà molte nazioni, i re chiuderanno la bocca davanti a lui, perché vedranno a ciò che non era mai stato loro narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Isaia 52.13-53.10. Secondo le profezie, Gesù avrebbe ricevuto onore e gloria, ma prima di questo egli avrebbe dovuto soffrire, essere umiliato, disprezzato, maltrattato e percosso. E è vero che i figli di Dio un giorno riceveranno una corona in proporzione alla loro fedeltà a Dio, ma prima anche loro devono passare nel crogiolo della sofferenza e dell'umiliazione. Sfugge a molti che la chiamata del cristiano è una vita di sofferenza e di umiliazione, e per questo quando viene la prova non la si regge. Lo ha detto espressamente anche Gesù quando raccontò la parabola del seminatore. Una parte del seme cadde tra le spine, metafora usata per illustrare coloro che ricevono con allegrezza il Vangelo, ma che, quando viene la persecuzione e l'umiliazione a causa di Cristo, ne rimangono scandalizzati e abbandonano la fede. Occorre tenere presente che il desiderio di assomigliare a Gesù comporta in sé anche la sofferenza e l'umiliazione, e queste cose non si possono chiedere a cuor leggero, e difficilmente si possono intendere quando si è accompagnati in un coro di centinaia di persone. Ho visto molti giovani cantare davanti ad un folto pubblico inni di lode e di riconoscenza a Cristo, ma ne ho anche visti altrettanti retrocedere davanti alle prove e abbandonare ogni sentimento religioso. Chi ha una certa esperienza di fede o un lungo cammino con Gesù non può rimanere insensibile di fronte a chi rinnega la fede in Cristo, e spesso si chiede come possano succedere queste cose. L'uomo è impotente a spiegare certe cose perché solo Dio conosce i cuori, ma vi può essere da parte dell'uomo una certa responsabilità, e cioè quella di non avvertire abbastanza Cosa significa assomigliare a Gesù? Pensare come Gesù significa andare controcorrente, significa esporre al mondo un'etica diversa e una filosofia che si discosta totalmente da quella umana. Alla sua comparsa in questo mondo, il messaggio del Vangelo ha ottenuto opposizione ovunque. Atti 28.22. Dopo 2000 anni abbiamo dimenticato ciò che ha detto l'Apostolo Paolo. Io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti per Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino ad ora. Noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. E ci affatichiamo. Ingiuriati, benediciamo, perseguitati. Le nostre mani. Sopportiamo. Vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. 1 Corinzi 4.9-13. Lavorando con. Assomigliare a Gesù nell'amare non è per nulla romantico. Innanzitutto perché amare è una disposizione esattamente contraria alla nostra natura egoista. Amare non è un bellissimo sentimento romantico che ci trasporta in situazioni idilliache dove si è accompagnati da un sottofondo di musica che ci piace, ma spesso è sofferenza e rinuncia, cose queste che non piacciono a nessuno. Gesù ha veramente amato, è l'emblema dell'amore, eppure è stato ostacolato e perseguitato dai religiosi anche politicamente. La folla, la quale prima era disposta a farlo re e lodarlo, alla fine lo ha fatto mettere in croce. Nonostante questo, egli non ha aperto bocca, accettando ciò che stava succedendo. Amare come Gesù significa saper accettare l'ingiustizia su se stessi, significa non farsi giustizia con le proprie mani. Sono atteggiamenti questi non spontanei, e si ottengono solo con la ferma determinazione di voler lasciare tutto nelle mani di Dio. Assomigliare a Gesù vuol dire trovarsi spesso da soli come lui era solo. Era solo tra i suoi discepoli, che aveva scelto e protetto. Era solo in casa dove aveva vissuto per 30 anni. Vivere da soli non è facile perché uno dei nostri più forti istinti è il bisogno di vivere in società. Gesù visse da solo e da incompreso, e come se questo non bastasse, morì da solo con il grande grido «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Assomigliare a Gesù significa non avere lodi, applausi e spesso neppure incoraggiamenti. Non vi è nulla di male nel volere assomigliare a Gesù, ma purtroppo il più delle volte questo desiderio rimane più romanticizzato che basato sulla cruda realtà. La realtà spesso spiazza. Ho conosciuto dei credenti che non vedevano l'ora di andare in Palestina a vedere i luoghi dove Gesù aveva vissuto. Dopo averli visti, sono tornati a casa delusi perché in fondo le pianure erano pianure, le colline erano colline. E i luoghi chiamati sacri sono profanati da reliquie e statue. Senza rendersene conto, molti credenti hanno un'immagine della vita cristiana molto romantica. Pensano che si professi la fede sempre con gioia. Pensano che la comunione fraterna sia vissuta sempre piena di entusiasmo. In seguito scoprono che la fede molto spesso si professa in mezzo a tanti dubbi e la comunione fraterna viene vissuta con molta fatica e tra mille difficoltà. Amare, agire, pensare come Gesù porta ad avere i risultati che lui stesso ha avuto. Certamente non è detto che tutti debbano andare in croce, ma se è vero quello che ha detto l'Apostolo Paolo, e cioè che tutti coloro che vogliono vivere piamente, cioè in santità, saranno perseguitati, allora quello che ci si deve aspettare nella vita cristiana non sono né applausi né approvazione generale. Spesso gli uomini di Dio sono stati aiutati e capiti da ben poche persone, ma la norma di un figlio di Dio che vuole vivere e vive pienamente il messaggio del Vangelo è quella di assomigliare a Gesù, e cioè quello di essere disprezzato e incompreso. L'Apostolo Paolo, che ha permesso a Cristo di vivere nella sua vita, ha confidato a Timoteo al termine del suo servizio per Dio: «Nella mia prima difesa, nessuno è stato al mio fianco ma mi hanno tutti abbandonato, questo non venga loro imputato». 2 Timoteo 4:16. Terminare il proprio servizio per Dio abbandonati da tutti non è un grande onore davanti ai credenti, vero? Cosa si direbbe oggi di un servitore di Dio, con al suo seguito uno sparuto gruppo di persone ma lasciato solo dalla maggioranza? Che reputazione avrebbe nell'ambiente religioso? Quello che direbbe e farebbe non sarebbe preso in seria considerazione. Che ascolterebbe o seguirebbe un uomo che viene rifiutato dalla maggioranza? Anche Gesù aveva un sparuto gruppo di discepoli, e questo non perché fosse da evitare, ma perché diceva la verità. Somigliare a Gesù vuol dire professare la verità, anche quando questa costa la solitudine, la persecuzione, la sofferenza, l'umiliazione. E questo non è facile, tanto è vero che sono pochi coloro che tengono alta la parola di Dio contro l'opinione errata dei più. La gente continua a chiedersi come sia possibile che seguano la verità solo poche persone, così che il loro interrogativo rivela quanto poco abbiano capito della verità. Proprio perché la verità è scomoda, disturba, scombussola, pochi la cercano. Proprio perché l'amore è un atteggiamento di sofferenza, pochi lo esercitano. Si preferisce seguire l'ideale della verità, l'ideale dell'amore, l'ideale della fede cristiana, ma quando si vuole somigliare a Gesù, lui che è la verità e l'amore, allora la cerchia dei seguaci si assottiglia. Voler somigliare a Gesù è un bellissimo obiettivo da incoraggiare, ma è importante depurare questo sentimento. Gesù ha sempre frenato gli entusiasmi facili con risposte taglienti, una delle quali è: nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9:62. Il che vuol dire: pensa bene alle tue parole e alle tue scelte. Se vuoi servirmi, sappi che cosa ti aspetta, perché se ti ritiri dopo aver iniziato non sei adatto a servirmi. Che questo pericolo sia uno stimolo alla scelta di voler assomigliare a Gesù e non all'indietreggiare. Novembre 2005. Ellero.